Nel mezzo chiamo schiena contro schiena, quando andiamo in scena chi ci sfida ci smena, se ancora in tempo si frena. Schiena contro schiena, bodyguard della scena, Neko e Zorba, Wai sta già suonando la sirena. Alto là, suona l'allarme, Neko, sui bidi show in ossa e carne. Fame, ti divoriamo come tarme, non riesco a starne fuori. Beat spessi, gioie e dolori concessi, sotto pressa se non confessi. Pronto allo scontro suona il gong, gong, la tua massima, ambarabacci cicocco, figura pessima. Sta già suonando la sirena, la spada con l'incisione, resta l'emblema, arte, musica e cultura. Sì, ti sparo in vena, dose massiccia ogni mattina, prendo le distanze da chi la scena vera la rovina. Testa bassa, giù a 90 vaselina, la tua ora è vicina, fatti dose d'autostima, ODT, un camion pieno di merda si avvicina. Suona la sirena, allarme per chi sta sputtanando la scena. I difensori combattono per la scena vera, schiena contro schiena, al centro dell'arena. Controparti marce dell'hip hop, asportiamo la cancrena. Chirurghi con i bisturi curano i tuoi disturbi, prendi tempo e ti masturbi, ma il tuo demo non c'è ancora. ODT scuola, Zorba il maestro, il saggio, il sapiente, e tu l'ignorante tra i banchi che fa lo studente. Il perdente, capo tecnico al primo round, Ocean Sound, la vittoria sale dall'underground. Stile oceanico, italiano, scale di show come Luca Somanolo. Sei confuso? Come dopo un chilo di pakistano? Mentre io sul trono scateno le tempeste del mio oceano. Giochiamo schiena contro schiena quando andiamo in scena, chi ci sfida ci smena, se ancora in tempo si frena. Schiena contro schiena, bodyguard della scena, Neko e Zorba, Wai sta già suonando la sirena. Sono da quando stavo a Londra, ti chiedi chi siano sti bardi giovani, Neko e Zorba, oceano parte seconda. Portatemi uno scarso che sottoscritto lo sfonda. È una sorte avversa da quando un mondo perfetto è riemerso da un oceano in tempesta. La nostra religione si svela, hip hop qui chiesa, resta una scena vera. Zorba il profeta dei proseliti, Neko svela i nostri dogmi eretici. Sì, credici, AMC Connection, componenti 13, col tridente in mano sopra il trono rimaniamo i giudici. Tempesta nell'oceano, a beneficiarne siamo gli unici. Un gi da critici famelici, ed ora di decidere l'hip hop, non siete all'ABC. Questa è la vostra condizione imposta, scartate ogni proposta, tempesta sopra l'arca, chiedi qua. Giochiamo schiena contro schiena quando andiamo in scena, chi ci sfida ci smena, se ancora in tempo si frena. Schiena contro schiena, bodyguard della scena, Neko e Zorba, Wai sta già suonando la sirena. Strumo il beat, rollo rime targati di T, chiudo lo split, il risultato è un'esplosione di THC che ti gira in vena, Neko e Zorba, schiena contro schiena. Stavi bene a cena, che non tenevi problema, più uguale a classe al teorema, prendilo come assioma. Sato scazzi e scrausi come Fiona, ho un sensore che i b-boy fieri li arpiona. Il triangolo Tavelli filippini consuma, fa sparire il lithium seas più di quello delle Bermuda. È schiena contro schiena, la posizione di reciproca difesa. I'm ready for the fight, tranne con Zorba in trappola, come in daylight, senza fine il tunnel. Lo resto in bilico come un circense sulla fune. Cerchi skills, fatti un giro in linea di confine, stacco, un saluto alle signorine, ma ritorno attacco, occhio che arrivo, prendimi su serio, stai allerta, qui c'è l'MC che nel concerto ti sconcerta, concerta gente, non ho niente a che fare, ho scelto la mia strada, so dove devo andare, sempre sola contro schiena col compare. Giochiamo schiena contro schiena quando andiamo in scena, chi ci sfida ci smena, che ancora in tempo si frena. Schiena contro schiena, bodyguard della scena, Neko e Zorba, Wai sta già suonando la sirena.